Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Esiste una tecnologia in grado di sequestrare la CO2, accumulare acqua durante le precipitazioni, depurare l'aria e ridurre l'effetto delle ondate, dell'isola di calore nelle città? La risposta è sì, ma non l'abbiamo inventata noi. Ogni pianta infatti fa esattamente, normalmente, tutte queste cose. Ed eccoci al tema di questa sera. È possibile pensare al verde urbano in questi termini, cioè come a una tecnologia, una fabbrica di aria pulita e di ombra, un serbatoio di emergenza e così via? Ed è possibile immaginare infrastrutture che mettano a sistema le capacità di questa tecnologia vecchia centinaia di milioni di anni, facendo in modo che abbia un impatto strutturale sulle città? Bene, ne parliamo con Francesco Musco, che si occupa esattamente di questo. Lui è direttore del corso di laurea magistrale di pianificazione dell'Università IUAV di Venezia. Buonasera Musco. Buonasera Melis. Allora Musco, senta, partiamo con un esempio di qualcosa che si può fare già sulla piccola scala, per esempio per così aggiungere funzioni a una aiuola, una pianta, qualcosa che in fondo c'è già spesso per ragioni estetiche. L'obiettivo è fondamentale, è proprio quello di utilizzare il verde urbano come strumento che contribuisca all'adattamento. Siamo in uno scenario di clima che cambia, allora l'obiettivo è riuscire a raccogliere acqua in caso di eventi estremi da pioggia e diminuire il surriscaldamento delle aree urbane. Come lo si può fare? Lo si può fare utilizzando il sistema del verde, i parchi urbani, le aiuole, gli spalti traffico, i viali alberati, però finalizzandoli a quella funzione. A quella funzione. Ecco, facciamo un esempio di un'aiuola aumentata, diciamo così. Ad esempio, un'aiuola che non ha solo fini estetici, ha un sistema tecnologico anche di raccolta con una parte di accumulo dell'acqua che permette di raccogliere molta più acqua di quella che un'aiuola normale potrebbe normalmente trattenere. Fare. In questa maniera l'obiettivo qual è? Quella di ridurre il più possibile la quantità di acqua e la velocità in cui l'acqua va alle fognature. Certo, io l'accumulo nell'aiuola, riduco la velocità, ecco, e adesso quindi riduco il carico della fognatura. Ecco, quindi proviamo adesso a passare da questa scala, quella dell'aiuola, diciamo così, alla scala della città o del quartiere. Certo. Come si possiamo immaginare di mettere insieme tanti piccoli punti di forza di questo genere? L'obiettivo fondamentale di tutti i piani per la resilienza e per i cambiamenti climatici che si stanno affermando ormai nelle grandi città del mondo è proprio quello di utilizzare micro soluzioni che contribuiscano diffuse che contribuiscono complessivamente all'adattamento agli eventi estremi. Se io ho una rete di parchi urbani che non ha solo, come dire, il fine visitazionale, che è fondamentale all'interno di una città, ma anche il fine di la capacità di ridurre il surriscaldamento e di raccogliere l'acqua nei modi in cui dicevamo prima, raccogliere in senso di accumularla per un breve periodo di tempo, capite bene che allora la città nel suo insieme può diventare un sistema efficiente e resiliente rispetto a ad eventi estremi di acqua e di pollutamento. Senta, addirittura, se ho capito bene, si può creare, come dire, quasi un sistema parallelo a quello della fognatura, è uno dei tanti scenari possibili, naturalmente, dedicato alla raccolta delle acque piovane che invece spesso, finendo in fognatura, creano anche guai, diciamo. Assolutamente, il problema fondamentale degli eventi estremi da pioggia è che gli eventi estremi da pioggia rischiano di sovraccaricare le fognature e la maggior parte degli allagamenti avvengono perché la fognatura non ce l'ha fatta. Allora, uno degli obiettivi è quella di ridurre la quantità e ridurre la velocità dell'arrivo dell'acqua. Questa cosa, se uno la inserisce all'interno di un sistema del piano di una città, del modo in cui programma lo sviluppo territoriale di una città, capite bene che diventa, come dire, parte integrante della città stessa e non è più quindi un problema solo di fognatura. Fognatura è un aspetto, ma non possiamo pensare di cambiare le fognature di tutta la città. No, certo. Però possiamo sicuramente pensare di rendere più efficienti i sistemi dell'urbane che molto spesso sono stati progettati, ci sono tantissimi esempi di progetti efficienti di infrastrutture, ma poi non sono stati realmente. E qui arriviamo alla domanda successiva, che è come si affronta un progetto di questo genere, perché questi interventi su piccola scala di cui abbiamo parlato, perché vengano messi a sistema nel modo migliore, insomma, non è così banale. Però oggi anche qui la tecnologia aiuta molto. Assolutamente, la tecnologia oggi ci permette, per esempio, parliamo dei voli leader oppure degli altri sistemi tecnologici che ci permettono di leggere le differenze del territorio, per esempio all'interno di una città, ci permettono di comprendere dove c'è un maggiore rischio di surriscaldamento, per esempio, ci permettono di comprendere in maniera molto precisa dove c'è un maggiore rischio di allagamento. Allora, come dire, se io comincio ad avere delle informazioni molto dettagliate sull'area urbana, le soluzioni di dettaglio le le localizzo dove ne ho maggiormente bisogno. Certo. Molto banalmente, se ho un'area di uno spazio pubblico particolarmente a rischio di surriscaldamento nel periodo estivo, le piante le andrò a posizionare dove maggiormente ciò quel. No, esatto, per questo però capisce che necessita di due logiche. Uno, come dire, di un avanzamento anche tecnologico nel modo di pianificare le città e i territori. Due, il fatto che i sistemi come i sistemi del verde pubblico, o anche parliamo anche del verde privato, perché poi si potrebbe arrivare a dare delle indicazioni ai privati, devono essere progettati con una finalità che a quel punto non è solo quella visitazionale, che è fondamentale, certo, ripeto, però a quel punto entra in gioco anche l'aspetto funzionale, quindi colloco e organizzo il sistema delle infrastrutture verdi a seconda di dove ho maggiormente evidenziato i problemi di accumulo di acqua, quindi di deflusso e rischio, certo, idraulico, e maggiormente di surriscaldamento. Va bene, grazie, grazie Francesco Musco. Grazie Melis, a presto e buon lavoro. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani alla stessa ora, buona serata a voi tutti. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.